come sa, Presidente, a noi di Radio 24 piace il basket, anzi ci piace proprio parecchio. E allora, immaginando come per esempio il presidente del Napoli De Laurentiis ha fatto in questi giorni un calcio italiano sul modello NBA, punto su cui tra l'altro poi ritorneremo in modo più approfondito, è ipotizzabile in un futuro che magari alcune giornate di campionato, alcune partite della nostra Serie A possano essere disputate all'estero? Perché in fondo l'NBA lo sta facendo, anche se chiaramente con un calendario diverso, uno spettacolo diverso, però è un'ipotesi a cui state magari già lavorando? Ma io penso che noi dobbiamo metterci nella condizione di guardare con molta apertura a ipotesi di innovazione che dovranno essere necessariamente più accelerate e anche più frequenti di quelle che probabilmente abbiamo visto in passato. Questo perché, ripeto, disponiamo di un prodotto di eccellenza e dobbiamo guardare a come valorizzarlo al meglio in tutte le direzioni. Quindi ad oggi non abbiamo elaborazioni in quel senso, ma io credo che dobbiamo valutare e approfondire progetti innovativi per valorizzare in tutte le direzioni un prodotto di eccellenza che abbiamo. Oggi il calcio italiano, che se ne dica, è ai vertici del calcio mondiale. Tutte queste cose danno un grande valore alle nostre competizioni e noi dobbiamo guardare a come valorizzarle al meglio. Ovviamente sono meccanismi che devono essere approfonditi, condivisi dai club, raccordati con appunto le istituzioni sportive sia italiane che europee. Quindi ecco, per sintetizzare, capitasse l'occasione buona dal punto di vista sportivo e commerciale, quell'Inter-Lazio che abbiamo visto a Pechino come Supercoppa potrebbe essere benissimo un Inter-Lazio di campionato giocato sempre nello stadio del Nido di Pechino in un prossimo futuro. In termini teorici continuo a dire che sono meccanismi che possono essere approfonditi, non sono evidentemente delle innovazioni semplici perché comportano tanti problemi di carattere progettuale, organizzativo, di allineamento del campionato e delle singole giornate, però noi già in questa direzione stiamo lavorando. Anche quest'anno la finale della Supercoppa italiana si giocherà in Cina, proprio perché c'è una forte domanda in quel mercato del calcio italiano, che viene anche molto apprezzato dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista economico.